come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18:36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, sempre gli stessi, 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, i titoli del TG2. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio per la morte dello spacciatore del caso Marrazzo. Cafasso sarebbe stato ucciso da una dose letale di eroina mascherata da cocaina. Tremonti ottimista, per il prossimo anno possibile crescita anche superiore all'1%, ma vanno rispettati i vincoli di bilancio. Riforma fiscale entro la legislatura. Al TG2 la testimonianza degli agenti che hanno sventato la fuga di due boss dell''ndrangheta detenuti a Palmi. Feriti dai banditi hanno risposto al fuoco. Anno ricco di film che vedono i cani come star di prima grandezza. Tra i premiati i 14 Labrador utilizzati per Io e Marley, la pellicola con Owen Wilson e Jennifer Aston. Qualche titolo di Studio Aperto. A Pavia un'altra giovane violentata da 3 extracomunitari. Cresce la rabbia nel nord. A Studio Aperto la denuncia di una coppia di Brescia. Quello stupratore era una belva, così ci ha aggrediti. Caso Marrazzo, nuovo giallo. Il pusher Rino Cafasso ucciso da una dose letale di eroina purissima mascherata da cocaina. Chi gliela diede? Il Trans China racconta. Brenda prese 30.000 euro dall'ex governatore. L'ottimismo di Tremonti. Il prossimo anno il PIL salirà oltre l'1%. Stiamo lavorando alla riforma fiscale, annuncia il ministro. Giustizia, appello di Schifani. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si potrebbe parlare di un sacco di cose, però c'è una notizia, pagina 23 della Stampa di Torino, che secondo me è fenomenale. Non porterà a nulla, naturalmente, perché sono proposte. Non si può riaprire un bordello in un comune, non si può, c'è una legge che lo impedisce. Ci provano però gli amministratori di Lombardore, provincia di Torino. Il titolo della Stampa di oggi è questo: bordelli comunali per abbassare le tasse. Il paese invaso dalle lucciole si appella al governo. Un'ordinanza comunale già vieta la prostituzione a Lombardore, vicino a Torino, pena una multa di 400 euro al cliente e un'altra alla lucciola. Insomma, vogliono riaprire le case chiuse, farle gestire un bordello comunale dal comune, cioè un bordello statale, diciamo, un bordello comunale come ai vecchi tempi. E questo perché? Per abbassare di qualche centinaio di euro le tasse che gravano sui cittadini. Una casa chiusa comunale per far abbassare le tasse dei cittadini di qualche centinaia di euro. Una proposta provocatoria che arriva dal vice sindaco di Lombardore, una località con 1.500 abitanti in provincia di Torino. Lo stesso che un anno fa aveva vietato la prostituzione in paese. Domani sera il Consiglio voterà un ordine del giorno della maggioranza che invita il Parlamento a istituire le case di tolleranza. Il posto c'è già, è in periferia, commenta il vice sindaco. Vabbè, insomma, voglio capire più tardi, invitando vari esponenti di Lombardore, se è una buffonata oppure una cosa seria, perché un ordine del giorno al Consiglio Comunale che invita il Parlamento a rivedere la legge. Qui siamo. Alla fine fate qualcosa a Lombardore, vi inventate qualcosa anche contro la legge, oppure no? 800 24 00 24. Vogliamo ricordare che nel marzo del 2008, dunque prima delle elezioni, prima di diventare ministro degli interni, l'attuale ministro Maroni si è espresso in questo modo. Un quartiere a luci rosse alla bicocca, Sgarbi, lei che dice? 10 anni fa avevamo proposto una cosa simile, quindi se serve a togliere la prostituzione dalle strade, se serve a rendere i quartieri più sicuri e a eliminare la delinquenza che c'è in molti quartieri delle grandi città, certamente sì. Ma rimasero parole un po' al vento, parole al vento. Allora, andiamo invece di nuovo alla questione degli stronzi, sollevata da Fini. È d'accordo uno dei ministri dell'ex Alleanza Nazionale, cioè dire La Russa, sentito, lo parla anche un po' da interista. Non sono d'accordo con molte delle soluzioni di chi ha presentato le leggi, presentare diritto di voto adesso, cambiare la cittadinanza solo abbassandola senza altre cose, sono contrario. Ma questa affermazione di Gianfranco Fini, e chi può dire che è sbagliato? Cioè c'è qualcuno che pensa che non siano stronzi quelli che hanno urlato e se Saltelli muore Balotelli sporco negro? Io dico che erano stronzi. E questa è La Russa. Antonio Di Pietro, torniamo con la sua rubrica perché è sempre in televisione, magari non ce ne accorgiamo perché sono tantissime le trasmissioni, però ultimamente tra ieri e oggi insomma se l'è cavata bene. Se è disponibile, non mi ascoltano mai quelle della televisione, a volte mi ascolta qualcuno che mi dà spazio. Come non ascoltano mai? Mica si chiamano tutti Fazio. Ma lei è sempre in televisione? Scusa. Ma quando mai? Io la vedo sempre. Ma quando mai? E beh, iniziamo con ieri Italia sul 2, ieri all'Italia sul 2, ospite credo per la terza volta negli ultimi 15-20 giorni di Monica Setta. Lei che cosa vede? Che cosa succederà di questo governo? È una proiezione quella che questo le chiedo. Governo non sta è un commento al governo politico. Per un motivo molto semplice: assicurarsi attraverso una serie di leggi di non rispondere alla giustizia. E poi nasce una nuova trasmissione ed eccolo lì pronto, prontissimo. Federico Guiglia conduce, ex co-conduttore insieme a Lilli Gruber di 8 e mezzo. Ha una trasmissione che si chiama Prossima Fermata e c'è naturalmente Antonio Di Pietro. Buonasera Antonio Di Pietro. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Leader dell'Italia dei Valori e deputato. Eccoci qui dunque 800 24 00 24. Direi di andare con Rotondi perché questa notizia, che non è una notizia della pausa pranzo, che non si trasformerà mai in qualcosa di concreto, ha fatto i titoli dei telegiornali di ieri e anche di oggi. L'ultima del ministro Rotondi: vuole abolire la pausa pranzo, un rito da cancellare, dice ai microfoni di Klaus Davi, ma il popolo del tramazzino si ribella, lavorare senza sosta, comincino i politici. La pausa pranzo è un danno per il lavoro, ma anche per l'armonia della giornata. Pausa pranzo da rivedere, dice Rotondi, e il tramezzino finisce nel dibattito politico. L'Italia si blocca e non si trova più nessuno, al di là del merito e del ruolo che oggi, confesso che è un andazzo che non mi è mai piaciuto. Il ministro Rotondi critica la pausa pranzo, sarebbe meglio, dice, uscire prima, favorevoli e contrari. Dico che se a un lavoratore diciamo abolisci la pausa pranzo ed esci un'ora prima, ne guadagna la salute, la produttività. Questi titoli dei telegiornali tra ieri e oggi, e naturalmente partono che cosa? I sondaggi, i servizi, le interviste alla gente per strada. Cambiare le abitudini degli italiani riguardo alla pausa pranzo non sembra cosa facile, il dibattito tra favorevoli e contrari si accende. Ma dipende appunto quanto può essere la pausa, cioè se magari si tratta solo di mezz'ora così magari non so se ne vale la pena. Sarebbe bene che ognuno decidesse secondo le proprie... Le non notizie dunque. E lo voglio un consiglio, militari e civili, piantiamolo con queste nostalgie. Oltre che in civile è inutile, oramai li hanno chiusi. A voi italiani è rimasto questo chiodo fisso qui, toglietemelo! Oramai li hanno chiusi, arrangiatevi! Era uno straordinario Totò del 1959, Arrangiatevi, in cui si arrabbiava avendo affittato una casa che prima era una casa chiusa, si arrabbiava con quelli che ancora pensavano di andare a trovare le loro donnine. Arrangiatevi, italiani, ed è quello che sostanzialmente fanno da tantissimi anni, da decenni. Rosanna dalla provincia di Roma, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire a proposito del White Christmas. Siccome ho un marito che è un ubriano d'Egitto e è un musulmano molto molto aperto, mi diceva, mi proponeva, visto che Gesù Cristo è nato in Palestina, mi diceva perché non facciamo l'Orient Christmas. Che significa musulmano molto aperto, Rosanna? Molto aperto. aperto, nel senso che è un musulmano che non è proprio un praticante di quelli fanatici, che conviviamo tranquillamente senza che io abbia dovuto abbracciare la religione musulmana, come succede per tante altre. Cosa c'entra però con i White Christmas? Come? No, cosa c'entra con i White Christmas? Gesù. No, vogliono fare il White Christmas, no? Perché vogliono fare? Gesù è nato in Palestina, cioè facciamo l'Orient Christmas allora. Sì, l'ho capita la cosa. Io sono musulmano e prego anche Gesù come profeta. Rosanna, però l'iniziativa White Christmas, mi scusi un attimo, l'iniziativa White Christmas, considerate l'iniziativa White Christmas, soprattutto per il nome, poi per gli effetti pratici, non credo che sia... che sia così drammatico poi l'impatto su Coccaglio, non è che è rivolto ai cittadini musulmani? No, non è rivolto ai cittadini musulmani, però essendo lui un egiziano nubiano, naturalmente si è sentito scuri, no? Lei lo sa che sono più scuri, sono del sud dell'Egitto, quindi assomigliano più ai somali, agli eritrei, eccetera. Naturalmente è rimasto colpito da questa cosa. Dalla pulizia che vuole fare il sindaco di Coccaglio. Va bene, d'accordo Rosanna, la ringrazio. Adriano, provincia di Viterbo. Buonasera, come va? Allora, mi hanno detto di non fare ringraziamenti, non pensavo affatto di farne, però vorrei fare... Ma nessuno vuole fare, nessuno invita né a non fare né a fare ringraziamenti. Se qualcuno le ha detto di non fare ringraziamenti ha sbagliato. Io non li voglio fare, ma li voglio fare... D'accordo, non li faccio, bene. Perché sono gli ascoltatori che con le loro telefonate rendono possibile questa trasmissione e siccome lei non ha mai fatto un ringraziamento agli ascoltatori, lo faccio io. Vabbè, partiamo da qui. Ma io gli ascoltatori li ringrazio ogni giorno. No, non li ringrazia mai, è in bacchetta anzi normalmente. Adriano, passiamo oltre. Passiamo oltre. Buono, non attacchi il suo vittimismo. No, allora, buono lei, dunque, passiamo oltre, ho detto, passiamo oltre. Stavo passando. Ecco, bravo. Bravo. Dunque, sono due le cose che volevo dire. La prima è questa, il processo breve. Ma perché, visto che si dice il grande danno è per le parti lese, che se non c'è il processo rimangono con un palmo di naso, non possono chiedere i giusti risarcimenti, eccetera, e dall'altra parte si dice non celebrando i processi si risparmia, ma perché non si aggiunge un meccanismo in cui una parte potrebbe mettere... Scusi un attimo Adriano, non è che sia risparmio il motivo principale per cui la maggioranza è presente al processo, la legge sul processo breve. Stato detto letteralmente che... Sì, ma non è la prima cosa, non è che la maggioranza presenta il disegno di legge sul processo breve per risparmiare quattrini. No, non è così. Non stavo detto esplicitamente. Sì, che sarà stato detto tra le cose, può darsi pure che sia io risparmio, ma non è quella la prima cosa, no? No, certo, è una delle conseguenze che in una dei tanti... Vabbè, allora... qualcuno del PDL ha detto, poi si risparmia pure perché non si fanno tanti processi, eccetera, eccetera. E in più le persone dovrebbero essere processate, ben contente di essere scapolata, potrebbero, fare una forma un po' insolita, nuova di patteggiamento, e come dire, si risarcisce in qualche modo le parti civili, e questo salverebbe capre e cavoli, perché la cosa orrenda è che c'è qualcuno che ci rimette le penne. Se si riuscisse a toccare qualcosa, già adesso è così, perché quando ci sono i patteggiamenti, i pubblici ministeri dicono, senti, fa andare via la parte civile e facciamo un buon patteggiamento, perché è così il meccanismo. Ma però Adriano, mi sembra che siamo fuori obiettivo rispetto alla discussione che c'è sul processo breve, che non è quello dei risarcimenti, il risparmio di denaro, ci sono altre cose, altre questioni in ballo, per carità, poi... Ci sono tutta una serie di dettagli che diventano importantissimi una volta che la legge viene approvata. Va bene, Antonio dalla provincia di Cosenza, buonasera. Sì, buonasera dottor Crociani, complimenti per la trasmissione. Io volevo intervenire sul fenomeno, sul tormentone Fini, per la parola usata in merito al problema immigrati che si dibatte in Italia. Sì. Allora, purtroppo in Italia si è molto bravi, come si dice, a guardare il dito e non il dito che punta e non la luna, quello che è il dito. Lei si riferisce alla parola stronzo o stronzo da Fini che ne pensa? Cioè, ha ragione la russa quando dice, mi scusi un attimo Antonio, sì. Ha ragione la russa quando dice, beh insomma se avesse detto un'altra cosa non se lo sarebbe filato nessuno, invece con quella parola ha fatto nascere una mini discussione, ha ragione o no? Sì, può essere che sia un fenomeno comunicativo questo qua, sia stato detto proprio perché io considero Fini uno dei pochi statisti esistenti in Italia, quindi lo considero, ho una buona considerazione del presidente Fini confronto alla politica in generale e a quella che in Italia, e a quelle persone che in Italia la rappresentano. Quindi io Fini è uno di quelle poche persone al di là dell'ideologia. Ma lei si fida di Fini? Sì, è una persona che io seguo e ritengo statista, uno dei pochi statisti che ci sono in Italia. Abbiamo capito. Quindi lui sicuramente non apre bocca e butta fiato e dice quello che esce. Sì, ma andiamo al concreto però, lasciamo da parte i Peana a Fini, cosa ci vuole dire su questa carità, storia? No, nessuna piaggeria. Volevo dire che lui sicuramente, per rispondere al fatto della parola usata da lui, sì, come parola stronzo, lui non l'ha usata a cuor leggero, sicuramente avrà voluto sollevare il problema e quindi avrà voluto portare all'attenzione il problema e il fenomeno immigrazione. Perché, non è che non sia all'attenzione, non è che non se ne parli. Però lui viene sempre rintuzzato perché viene. C'è ancora. Va bene, Antonio, ho capito benissimo. Ho capito. Arturo da Roma, buonasera. Buonasera. Io intervenivo in merito all'immigrazione e all'atteggiamento che il suo atteggiamento che mi sembra leggero e come al solito sarcastico su un tema che forse meriterebbe maggiore attenzione o maggiore riprendere in modo più forte alcuni atteggiamenti che alcuni politici hanno. Come cioè cosa dovrei dire per esempio? Lei proprio quando invita quel personaggio della Lega, là, quello degli autobus solo per i bianchi, cioè a lei usa lo stesso sarcasmo che naturalmente lei parte dal presupposto che Salvini abbia detto che ci vuole un autobus solo per i bianchi, cosa che non ha detto naturalmente. Vabbè, mi sembra che Salvini, cioè qui si danno per scontate molte cose, qualcuno ho letto da qualche parte, l'altro giorno, su Repubblica ho letto Michele Serra che scriveva la proposta di Coccaglia è come i rastrellamenti etnici, i rastrellamenti razziali. Lei si rende conto dell'enormità di questa cosa? Titoli del TG3. Polemica sugli effetti del processo breve. Alfano, infondato l'allarme dei magistrati. Mancino, dati non inventati, ma serve un confronto sereno. Bersani, pronti a discutere sulla giustizia, ma il governo ritiri il provvedimento. L'emergenza d'economia, subito aiuti per redditi e imprese. Rigore nei conti pubblici, nessun taglio alla sanità. Il ministro Tremonti ribadisce la sua linea. La finanziaria non si fa con ricette magiche. Due settimane di cassa integrazione tra Natale e Capodanno negli stabilimenti Fiat, scaiola folle, far morire la fabbrica di Termini Imerese. Non era cocaina ma eroina. Cafasso, lo spacciatore coinvolto nel caso Marrazzo, potrebbe essere stato ucciso con una dose di droga truccata. La situazione nelle carceri italiane continua a Genova, la protesta dei detenuti, le telecamere del TG3 nelle celle di Re Bibbia. Una direttrice di banca tedesca copriva i conti in rosso dei clienti in difficoltà tingendo dai fondi dei più ricchi, è stata condannata. Mina, Fiorello, Battiato e tanti altri nomi famosi cantano con Claudio Baglioni nel nuovo album La storia di questo piccolo grande amore. Allora, c'è una tale sproporzione tra i numeri diffusi dall'Associazione Nazionale Magistrati, il 50% dei processi a rischio, e quelli diffusi qualche giorno fa dal ministro Alfano, che evidentemente c'è un'esagerazione da entrambe le parti. Questa è la prima considerazione. La seconda, a proposito di chi gli amici, per esempio, dell'Antizanzara hanno criticato alcune mie affermazioni sulla vicenda di San Martino dall'Argine, provincia di Mantova. Scrivono gli amici dell'Antizanzara che io avrei un po' cincischiato dicendo che non ci si deve scandalizzare. Ricordiamo San Martino dall'Argine, provincia di Mantova. Il comune ha affisso dei manifesti in paese invitando i cittadini a conoscenza della presenza di immigrati clandestini a farne segnalazione alla polizia locale. Io ho detto non ci deve scandalizzare perché alla fine queste cose si risolvono nel nulla. Cosa penso concretamente? Penso che sia un'iniziativa totalmente inutile, ma di qui a parlare di razzismo, come nel caso di Coccaglio, di rastrellamenti etnici, ce ne corre. Sky TG24. Tremonti ottimista sulla ripresa, nel 2010 la crescita supererà l'1%. Processo breve all'esame del Senato. Abbassare i toni, chiedono Schifani e Mancino. Quella legge va ritirata, insiste Bersani, ma apre al dialogo sulla giustizia. Caso Marrazzo, il pusher Cafasso, ucciso da eroina mascherata da cocaina. Denise Pipitone, udienza rinviata, la madre si scaglia contro gli indagati assenti. Fiat, Scajola interviene sulla chiusura di Termini Imerese, sarebbe una follia, dice. Pausa pranzo nel sondaggio di Sky TG24, bocciata la proposta del ministro Rotondi. Calciopoli, Moggi, Giraudo e Bettega assolti dall'accusa di falso in bilancio. Champions, l'Inter cerca il colpaccio contro il Barça, i Viola ospitano il Lione. Baglioni a Marcord, arriva il doppio album, questo piccolo grande amore. E non vado un consiglio, militari e civili, piantiamolo con queste nostalgie. Oltre che in civile è inutile, oramai li hanno chiusi. A voi italiani è rimasto questo chiodo fisso qui, toglietevelo! Oramai li hanno chiusi! Arrangiatevi! Nonostante Totò, in questo meraviglioso film del 59, si riapre qualche spiraglio per le case chiuse. Io sono un tifoso di questa soluzione, se non si era capito. Bordelli comunali per abbassare le tasse. Sono incerto sui bordelli comunali, invece di affidarli ai privati, essendo sempre allergico alle soluzioni statali. Insomma, un bordello organizzato dal comune non ce lo vedo molto, anche perché, leggo da questo articolo della Stampa, dice il vice sindaco di Lombardore, provincia di Torino, domani ci sarà un eccezionale consiglio comunale, tutto da seguire, faremmo risparmiare denaro alle famiglie. Una decina di ragazze, scelte non si sa da chi, forse dallo stesso vice sindaco, professioniste, serie, capaci di farsi conoscere e apprezzare per le loro doti in camera da letto. Beh, insomma, la discussione domani in consiglio comunale sarà sicuramente strepitosa. E su questo direi di ascoltare chi? Non lo so, forse nessuno? Di nuovo Maroni? Maroni, perché non bisogna mai dimenticare quello che succede. L'8 marzo del 2008 il ministro Maroni, quando non era ancora ministro, a favore delle case chiuse, adesso evidentemente non più. Un quartiere a luci rosse alla Bicocca, Sgarbi, lei che dice? 10 anni fa avevamo proposto una cosa simile, quindi se serve a togliere la prostituzione dalle strade, se serve a rendere i quartieri più sicuri e a eliminare la delinquenza che c'è in molti quartieri delle grandi città, certamente sì. Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. Insomma, il Partito Democratico alla fine ha deciso di non andare alla manifestazione. C'è tutto un dibattito molto acceso online alla manifestazione del 5 di dicembre, al No Cab Day, al No B Day, organizzato dalla rete, da internet, da vari gruppi e supportato, diciamo così, da Di Pietro e da Ferrero, il segretario di Rifondazione Comunista. Rosy Bindi, che è il presidente del Partito Democratico, insieme a Bezzani propongono un'alternativa, perché la piazza non si abbandona mai, in realtà c'è sempre voglia di piazza, di protesta. Se alcuni fanno una manifestazione, perché non la deve fare pure il Partito Democratico, che non va a quella del 5 dicembre ma organizza addirittura 1000 manifestazioni, 1000 piazze l'11 e il 12 dicembre. Rosy Bindi. Noi come partito lanciamo l'iniziativa delle 1000 piazze per l'alternativa, con uno slogan credo molto significativo. 11 e 12 dicembre. E il nostro slogan è: i problemi degli italiani, non i problemi del Presidente del Consiglio. Beh, insomma, sicuramente una manifestazione a favore di Berlusconi, e c'è da farvi ascoltare però il nostro Paolo Papillo, l'incursore delle radio, il Paolini della radio, il quale si diverte anche a fare il giornalista, per carità, va benissimo, io sono contro qualsiasi tesserini, burocrazia eccetera, dunque anche Paolo Papillo può fare le sue interviste e addirittura intercetta, pensate un po' chi, Walter Veltroni, sempre sulla piazza. Veltroni dice: no, io non ci vado perché ho il matrimonio di uno della mia scorta. Sinceramente, sentire che voi non ci siete mi dispiace. Ci sono molti del Partito Democratico. Non c'è il Partito Democratico. Lei è un esponente autorevole, lei non parteciperà neanche a titolo personale? Io guardi, quel giorno sai che devo fare? Devo celebrare il matrimonio di uno degli agenti della mia scorta. La manifestazione dura tutto il giorno, sì, quindi potrebbe anche venire. Comunque ci saranno moltissimi militanti del PD. Non ci sarà il PD ufficialmente? Non lo so, questo è chiaro. Ancora non si sa. Non sono io più che ho la responsabilità. Arturo da Roma, l'abbiamo recuperato, eccolo qui Arturo. Sì, ci siamo. Niente, vabbè, poi il corso della trasmissione ha un po' evidenziato quello che volevo dire anche io. Cioè, nel senso, lei secondo me a volte è poco netto nel rimarcare degli atteggiamenti, delle frasi, dei leghisti su questa cosa degli immigrati, che rasentano il razzismo. Lo so che lei non ritiene mai che niente è razzismo, mi ricordo quando... No, non ho detto che niente è razzismo. Quando i vigili picchiarano quel ragazzo, non mi ricordo dove, lei sosteneva che non c'entrava niente, vabbè. Però io ritengo che, secondo me, la Lega non ne fa una buona, e se qualche volta qualcuno spendesse una parola in favore di questa buona gente che sta qua, e anche la stampa e anche la Zanzara, forse ne avremo un'Italia migliore, insomma, invece di rimarcare... Guardi, l'altro giorno abbiamo chiamato per due volte, ci ha chiamato prima lui naturalmente, poi lo abbiamo rimandato in onda il giorno dopo, un abitante di Coccaglio, il quale ci ha raccontato la sua esperienza, diciamo, drammatica, in cui la polizia locale ha perquisito la sua casa, è entrata... chiedendo i documenti, pensando che ci fossero degli irregolari. Grazie, sì. Certamente sono delle cose inaudite che non andrebbero fatte, di cui il sindaco e il vice sindaco dovrebbero rispondere, dovrebbero rendere conto, se naturalmente tutte queste cose poi corrispondono al vero. Abbiamo dato l'incarico a un consigliere, a un rappresentante dell'opposizione, a Coccaglio, di fare chiarezza su questa storia, per cui non credo che possiamo essere accusati di non dare spazio. Una buona la fanno questi. Ma Arturo, adesso dire che non ne fanno una buona mi sembra esagerato, un'esagerazione anche da parte sua. Guardi, sulla cosa di Coccaglio si può pensare a tutto il male possibile, ma certamente non si tratta di un rastrellamento etnico come ha scritto Michele Serra su Repubblica, su questo non c'è dubbio. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola non esiste più. Questo soffitto viola non ha più pareti, non esiste più, è uno dei versi, come avete sentito, di una delle canzoni italiane più amate, Il cielo in una stanza di Gino Paoli. Più volte Paoli ha dichiarato che quel soffitto era di una stanza di una casa di tolleranza. Le case di tolleranza vorrebbe riaprirle un comune nel torinese, in provincia di Torino, che cerca di spezzare il tabù su questo argomento. Domani, con un consiglio comunale, vuole proporre al Parlamento di eliminare la legge Merlin. Sarà molto complicato, però ci provano. Sentiremo più avanti se è una buffonata oppure una cosa seria. 800 24 00 24. Andiamo direi a Roberto da Milano. Buonasera. Dica. Volevo che mi aiutasse a capire questo paradosso un po' ipocrita italiano, per cui c'è intolleranza a riaprire le case di tolleranza, però si tollera il fatto che ormai si è risaputo che uomini, trans, donne, svolgano una professione non ufficialmente riconosciuta in appartamenti, in case, a volte anche diciamo frequentati da jazzette e quant'altro, e su quello nessuno dice nulla. È piuttosto Lei strano. Ha perfettamente ragione, Roberto. Infatti, da tutta questa vicenda dei trans o delle trans, qualcuno dice che bisogna utilizzare il plurale al femminile, si evince che cosa? Che c'è una grande ipocrisia, che c'è sostanzialmente una prostituzione legalizzata, che però fa perdere soldi allo Stato. Insomma, Marazzo avrà dato 1.000, 2.000, 3.000, forse in alcuni casi, come dice China, il transessuale intervistato da Bruno Vespa ieri sera, 30.000 euro. Insomma, mi sembra improbabile 30.000 euro, però quanti soldi di tutti questi potrebbero tornare nelle casse dello Stato, no Roberto? Mi permette una battuta? Sì. Ma Veltroni lo si nota di più se ha la scorta o se non ce l'ha? Se ha la scorta o se non ce l'ha. E perché poi dovrebbe avere la scorta? Esatto. Ma non solo Veltroni, tanti, tanti esatto, altri. Esattamente. Bene, grazie. Mi riprendete per favore, se ce l'abbiamo, porta a porta con il Trans China che parla dei 30.000 euro? Grazie. Francesco da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. La ringrazio per la disponibilità che mi avete dato in radio. Bene, Francesco. Niente, volevo fare una piccola riflessione sul processo breve. Ecco, io credo che comunque tutti noi abbiamo bisogno, penso che tutti gli italiani abbiano bisogno di una seria legge sulla giustizia, perché è giusto che sia così. Processi che durano troppo a lungo non vanno bene, solo che però bisogna capire e vedere in che modo vanno fatte certe leggi e come vanno presentate. Io credo che questa legge presentata al momento sia, secondo me, incostituzionale, perché comunque tende a salvare solo, insomma, la pelle di poche persone. E soprattutto, non è perché adesso è il caso, però Berlusconi da 15 anni, da quando lui parla della sua discesa in campo, che tra decreti, lodi, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, ha sempre cercato di insomma saltare il fosso. Sì, Francesco, diciamo, lei non ci dice cose particolarmente nuove rispetto a un dibattito che va avanti da 10 giorni. Abbiamo bisogno ogni tanto anche di arricchire la discussione la sera, per carità, va benissimo, potete intervenire su qualsiasi argomento. Lei mi sta dicendo Berlusconi vuole fare il processo breve per salvarsi. La prima cosa che abbiamo detto quando è stato presentato il processo breve, sono d'accordo, bisognerebbe smettere di parlare di riforma della giustizia, è una legge che viene presentata per cercare di bloccare i processi a Berlusconi, punto. Abbiamo capito, andiamo oltre però. Carlo, provincia di Savona, buonasera. Dottore Cruciani, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Vorrei esprimere la mia opinione su quanto Fini ha proferito, che secondo me, se è un termine disdicevole in bocca a uno qualsiasi come me, è intollerabile sulla bocca del Presidente della Camera. Addirittura. Una figura. Insomma. E se lui ha sbagliato, due volte sbagliava Russo ad avallare l'errore. Poi l'eccezione di positiva che gli attribuisce Sgarbi è un altro discorso. Ma quello lì sta a chi lo riceve. Certo, non c'è un'accezione positiva nella parola utilizzata da Fini, non c'è dubbio, non c'è un'interpretazione positiva. Però perché secondo lei la parola stronzo non può essere pronunciata da un'istituzione, diciamo, da una figura istituzionale? Ma perché il ruolo istituzionale deve mantenere certo tono, cioè un certo decoro, una certa dignità. Non ci si può arrivare a parlare come se si fosse al bar o trattoria. Senta il modo in cui la Russa giustifica la presa di posizione di Fini. Sono convinto che lei quella parola non l'avrebbe usata. Dipende dal contesto, vedi. Se tu mi dici è normale che un presidente della Camera termine stronzo, dico no. Però si trovava di fronte a dei ragazzini, molti dei quali figli di stranieri, e stranieri alcuni loro stessi, e ha voluto rendere chiaro il suo concetto a dei ragazzi di 14, 13, 15 anni, e a quel punto devi cercare di usare il loro linguaggio. Io non mi fermo di fronte alla parola, non sarebbe cambiato molto se avesse detto da condannare severamente coloro che, probabilmente i ragazzi manco l'ascoltavano, invece ha detto sono stronzo e l'ascoltavo. Questo la Russa, lei che dice, Carlo? Dottore, mi rafforza la mia idea, noi dobbiamo dare l'esempio, noi dobbiamo cercare di fare innalzare il livello, non abbassare il nostro. Sì, non lo so, però bisogna anche parlare perché le persone capiscono. Io ho una figlia di 16 anni, sono in età matura, ma mia figlia ha 16 anni. Io le parolacce davanti a lei le evito di dirle, anche se a me non mi fanno accapponare la pelle, ecco. Però evito di dirle, perché se io do l'esempio di parlare in maniera sporca, cioè, mia figlia mi segue, penso. E secondo lei stronzo ormai non ha superato lo status di parolaccio? No, perché il resta tono con cui si dà il più delle volte e intende cilindro fecale, per cui se io un amico dico sei proprio stronzo, è amicale, però è diverso. Cioè, no, il cilindro fecale in realtà era la qualcuno se l'è presa per il fatto che ho citato la spiegazione letterale come viene dai dizionari della parola stronzo. È evidente che non c'entra assolutamente nulla, non è che qualcuno vuole dare dello stronzo come cilindro fecale a qualcuno, ad un'altra persona, semplicemente si dice stronzo per non dire di peggio, diciamo, anzi forse è il modo per edulcorare un concetto. No, le posso dire una cosa sul vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Mancino? Sì. non mi faccio partire i violini, però mi pare che le ostilità le abbiano aperte sempre le procure. Cioè, non mi pare che ci sia da parte di Berlusconi Stanimus di voler fare guerra. Mi pare che le ostilità nei confronti della politica, e non solo di Berlusconi, siano state sempre aperte dalle procure, nonostante i ripetuti inviti dei vari presidenti ed anche dell'ultimo di darsi una calmata. A me, io questo qui registro, può darsi che mi sbaglio. Va bene, va bene. La ringrazio. Roberto, grazie, provincia di Salerno. Buonasera. Roberto, provincia di Salerno, buonasera. Buonasera, sono in onda? Fino a prova Pronto? Contraria, sì. Ah, sì, grazie, buonasera. No, signor Cruciani, io la volevo chiamare, così l'avevo chiamata, vi ringrazio per avermi dato la linea, per dire che condivido affatto il suo modo di condurre la trasmissione. Lo so che probabilmente la cosa non è rilevante, però lo volevo dire, visto che sono un suo fedelissimo ascoltatore. Va bene. Non sopporto il fatto che lei, quando si tratta di atti del Popolo di Libertà, insomma di destra, parla di errori politici, di cose inopportune, non chiama mai le cose col nome e cognome, cioè delle cose a volte vergognose, aberranti e quant'altro. Ritengo. Ritengo che Berlusconi sia un camion ribaltato sull'autostrada. Sono 15 anni che il paese si occupa solo di lui. Io sono un imprenditore, ho 41 dipendenti con un'azienda familiare, e le posso dire che questo si vede sotto tutti i punti di vista. Ho mia moglie che è avvocato ed è una tragedia. Quindi e non si vede di mettere mano a nessuna riforma, che sia la giustizia. Io ho crediti insoluti per parecchie centinaia di migliaia di euro. Non riesco a recuperare niente. Con chi ce l'ha questi crediti, di anno Roberto? In anno. E i problemi della giustizia non sono questi. Sì, Roberto, ma scusi un attimo. Prego. Berlusconi sarebbe responsabile del fatto che lei ha crediti per centinaia di migliaia di euro, non so Berlusconi che cosa. Berlusconi è responsabile del fatto che lui si occupa della giustizia che riguarda se stesso. Non si preoccupa del fatto di velocizzare un pochettino i processi, tutti, quelli civili. Perché vede, il problema sa qual è? Che il rallentamento per l'economia avviene nel momento in cui io non ho garanzie certe da un mio fornitore, da un mio cliente, chiedo scusa, io non farò la fornitura, non farò il lavoro, perché so che se questa persona non mi dovesse pagare, io per recuperare i soldi, nella migliore delle ipotesi, se ci dovessi riuscire, ci impiegherò 5, però questo, 6, 7 Roberto, anni. Questo è un problema che attraversa tutti i governi dell'Italia negli ultimi 30-40 anni, se vogliamo, no? Non è che si può riferire solamente al governo Berlusconi. Poi ogni rappresentante dei governi passati potrà dire: noi abbiamo fatto qualcosa, noi abbiamo fatto la riforma del processo civile, qualche cosa è migliorata sicuramente, negli ultimi anni, però restiamo ancora nella situazione che lei ci ha descritto. Cioè, ma guarda, io penso che la politica non voglia che la giustizia funzioni. Perché? Specialmente qui al sud, quando hai un problema devi andare dal politico di turno, il quale ti deve fare il favore. E questo è il problema. Se tu hai qualcuno che ti contesta un lavoro, io mi occupo di impiantistica industriale e lavoro con tantissime multinazionali, tra cui la Ferrero, tra cui la allora? Vabbè, adesso non mi vengono in mente. Allora, che cosa succede? Che tu, se hai il problema per incassare, perché hai un diverbio con quella persona, quella persona devi andare dal politico di turno, il quale lo chiamerà e dirà: ma vedete, mettetevi d'accordo, eccetera, eccetera. Facevo parte del direttivo della selezione industriale di Salerno, mi sono dimesso. Sì. Mi sono dimesso. Questo per dirle che, nonostante gli sforzi, guardi, è diventato una tragedia, non funziona niente, non c'è un minimo di... E essere governato da una persona che non fa altro, veramente, penso questo, che non fa altro che, preoccuparsi dei propri affari personali, lo trovo veramente incredibile, vergognoso. Un'ultima cosa, poi mi permette, solo un'ultima cosa. Trovo veramente, fuori luogo Radio Londra. Capisco che lei voglia essere provocatorio. Io sono stato candidato alle elezioni comunali con la lista di Di Pietro, non perché penso che Di Pietro possa governare l'Italia, perché penso che le battaglie che lui porta avanti siano giuste, le condivido. Credo che ci sia un bisogno enorme di moralità. E qual è il problema? Scusi, non ho capito. A lei non piace l'ironia? L'ironia che facciamo su Di Pietro. Completamente fuori luogo. Cioè, lei l'altra sera, quando Di Pietro, sempre in televisione, ma non dice niente di strano. Se vogliamo andare a vedere le cose... No, Roberto, guardi, il punto è semplicemente questo. Di Pietro è andato alla trasmissione di Fazio a dire che lui non è mai in televisione, che non invitano mai. Siccome è una cosa che già sappiamo, abbiamo riscontrato che in realtà un giorno sì e l'altro pure va in televisione, lei, giochiamo su questo, è possibile una cosa di questo tipo o no? Berlusconi si è litigato, si è lamentato. Ma che c'entra, Berlusconi fa presidente del consiglio, è normale che vada in televisione più degli altri? No, si è lamentato di non andarci, che le televisioni non gli davano spazio. Sì, va bene, ma lasciamo, perché lei mi deve aggiungere un ma? È vero o no che Di Pietro è andato da Fazio a dire che non va mai in televisione? È vero o non è vero? È vero, è vero. È vero. Ed è vero che invece ci va sempre, sì o no? Ci va sempre, non lo so, io quando lo vedo... No, ci va sempre in televisione, sempre in tutte le trasmissioni, perché fa ascolti. Roberto, risponda al telefono, la ringrazio. 800 24... No, va bene lo stesso, un attimo solo, resti lì. 800 24 0024, Pier Gianni Prosperini, buonasera. Buonasera, buonasera. Eccoci qui, assessore alla Regione Lombardia, sport, turismo e sicurezza. Bravo. Sono stato preciso, sì? Sì. Meno male. Senta, lo stronzo di Fini, lei come lo interpreta? Allora, il Presidente del Consiglio, come già è successo anche nel passato, quando ha detto bisognerà cominciare a pensare a dare la cittadinanza prima, e l'ha detto sulla spinta dell'Europa che sta dicendo 10 anni sono tanti e prima o poi ce lo imporrà, lui ha detto mettiamo dei paletti. Sui giornali non sono venuti fuori bene i paletti. I paletti sono 5 anni di aver pagato le tasse, 5 anni di aver pagato l'affitto, 5 anni di aver pagato la luce e il gas, 5 anni di contributi lavorativi, di libretto di lavoro con lavoro, 5 anni di non aver avuto neanche un rinvio a giudizio. Tant'è che io ho detto, ragazzi, se è così, se lo applicassero gli italiani, il 30% il voto no. Cioè, ha messo talmente tanti paletti che voglio vedere chi potrà superare questi. E vabbè, lui questo... lo ha fatto, perché ha detto, visto che l'Europa prima o poi ci dà un ordine perentorio a cui non potremo disobbedire, almeno mettiamo dei paletti in maniera che con anche il design noi siamo pronti. Primo, lo stronzo, come dice lei, la parola. Allora, al di là che mi ha molto meravigliato, perché il mio presidente non è solito uscire con queste, però forse l'ambiente è così, lui ha detto chi discrimina, certo. Se poi vogliamo dire è normale che chi discrimina sia una persona da poco e... No, corretta. Veramente non ha detto chi discrimina, chi vi dice che siete diversi. No, questo è quello che è apparso sui giornali, dottore. E no, l'audio originale. Chi discrimina. E allora... Diversi sono diversi, perché sono diversi come cultura, come idee, come... Naturalmente ognuno è figlio del suo popolo, siamo diversi in Italia. Uno vabbè, insomma, ha fatto bene, siccome era davanti ai ragazzi, a utilizzare questa parola, l'ha fatto per farsi capire di più o no? No, secondo me è stata un po' tirata, perché non è nel personaggio. Cioè, se lo dicessi io, che sono burbanzoso, goliardico, essendo un docente universitario, vivo nell'ambiente dei ragazzi, quindi ho un vabbè, nessuno si sarebbe stupito, diciamo. Non ci sarebbe niente male. Detto da lui, che è sempre così compassato e molto a modino, ci ha meravigliato tutti. Può darsi che sia una nuova... Lui probabilmente si è sentito in mezzo ai ragazzi, però anche quella cosa lì è stata mal capita. Perché lui intendeva i discriminatori. Sì, certo. Capisci? E su questo siamo tutti d'accordo, perché voglio vedere uno normale di mente che non sia d'accordo che chi discrimina non è una persona per bene. Senta, ma il sindaco del comune di Coccaglio e la giunta di Coccaglio in provincia di Brescia discrimina oppure è tutta una montatura, come dice lui? Ma cinema, dottore, siamo in campagna elettorale. Però mi scusi, il White Christmas, uno se la poteva risparmiare come slogan, diciamo, no? Poi loro si rimpallano responsabilità. È il nome della canzone, dottore. Ormai purtroppo voi a Roma siete un po' viziati. No, io sono a Milano, veramente. Allora lei a Milano, sei a Milano, dovrebbe sapere. Abito a Milano da 10 anni, mi sento più milanese ormai. Bravo, no, ma lo dicevo perché a Roma l'impatto e nel sud l'impatto dell'immigrazione è molto diversa. Qui da noi sono veramente, soprattutto quelli di religione islamica, un po' invasivi. E un giorno vengono in Duomo a pregare, l'altro giorno invadono la chiesa, per altri pestano le vecchiette perché sono in viale Jenner e non le lasciano entrare e uscire perché loro devono pregare. Insomma, c'è un senso che... Vabbè, questo si sa, però questo non è che ti può portare a fare un'iniziativa per chiamarla White Christmas. Ma sì, diamogli l'appellativo che si merita, folklore, dottore, folklore, non c'è niente sotto questo. Se lei mi dice poi inopportuno, dico sì, effettivamente un po' inopportuno, soprattutto di questi tempi dove tutte le parole stanno diventando sassi. Guardi, io ho detto che chi ha scritto, in particolare Michele Serra, di rastrellamento etnico, dice un'imbecillità quanto sono imbecilli quelli che si sono inventati il White Christmas, per cui da questo punto di vista... Beh, rastrellamento etnico mi sembra la Madonna, stiamo arrivando, cioè ognuno pensa, o sono tutte parole in libertà dove ognuno dice rastrellamento etnico e pensa a fare, a tenere l'ordine e la disciplina, altrimenti mi sembra che stiamo arrivando... Però un immigrato di Coccaglio ci ha chiamato l'altra sera, si chiama Mohammed, l'abbiamo anche ricontattato. Ma poi a Coccaglio non ce n'è di immigrazione. Sì, ce ne sono pochi, effettivamente. Sono tutti, cioè è come dire, a Milano andate con la macchina, cazzo, vanno tutti in macchina. No, è vero, però ci ha chiamato questo immigrato, che si chiama Mohammed, di origine marocchina, e ci ha detto che per due volte si sono presentati i vigili, la polizia locale a casa sua di notte alle 4 di mattina a fare delle perquisizioni. Io mi chiedo come sia possibile, lei è esperto di queste cose, non è possibile allora, una cosa di questo tipo. Io sarei cauto, dottore, nel credere questo, se no facciamo come quella impiegata dell'S Lunga che ha detto mi hanno picchiato, mi hanno fatto qui, mi hanno fatto là, e poi si è scoperto che non era vero. Io dubito che carabinieri, polizia locale vada alle 4 della mattina senza una motivazione precisa, a parte che non ho mai visto la polizia locale fare delle perquisizioni, vengono a chiederti alle 8 della mattina se abiti lì, vengono a controllare quando fai la domanda di residenza. Io che la polizia locale vada alle 4 della mattina a fare una perquisizione, ma perquisizione la si fa con dei motivi e con dei mandati, certo. Ma neanche i carabinieri possono venire così a capocchia a casa mia a fare la perquisizione. Certo, questo dai, è no, mi stupisce. Lei non ci crede, dottore. Poi Coccaglio, dottore, se lei lo conoscesse, è un ridente paesino dove tutti i problemi sono all'acqua di rose, gli immigrati sono pochi, quei pochi sono bravi. Ma magari, a maggior ragione l'iniziativa White Christmas è una stupidaggine. No, è un'iniziativa di folklore e di grande penetrazione mediatica. Difatti state parlando di Coccaglio, se lei chiede al 99% della popolazione italiana non sa dov'è, che cos'è, certo. Ti chiedo, credo che sia uno strumento musicale. No? Senta, invece San Martino, anche folklore, quella di San Martino dall'Argine, provincia di Mantova, là il manifesto per sui clandestini, segnalate i clandestini, eccetera. Folklore. Beh, segnalate, cioè dovrebbe. Uno come fa a sapere se una persona è clandestina o no? Allora, dottore, purtroppo ormai, a parte che in campagna elettorale succederà di tutto, ma al di là della campagna elettorale, ormai l'immigrazione clandestina ha superato ogni possibilità di sopportazione, soprattutto nelle classi sociali meno abbienti e più in difficoltà e più deboli. E allora? Perché violentano le persone con una continuità nei mezzanini ovunque, e sono sempre immigrati extracomunitari, e all'80%, 70% rumeni. Quindi capisci che non è bello dire questo, però è quello che accade. Quindi nell'immaginario popolare il rumeno stupra. E quando a fare gli stupri sono i rumeni e i marocchini, nell'immaginario popolare, certo che non tutti i marocchini e non tutti i rumeni, però non glielo togli. Ho capito, però la segnalazione del, insomma, come si fa a essere, eccolo, no, è un clandestino, lo segnalo. La segnalazione del clandestino è possibile perché, che ne so io che è clandestino, e quando avevano detto a noi medici dovete segnalarci clandestino, ma dico, ma io da dove lo desumo che sia clandestino? Vabbè, il medico uno in teoria può chiedere i documenti. Come? Il medico uno può chiedere i documenti, se non ce l'hai, ma diciamo, si presume. Io chiedo i documenti, ma io non sono, no, sono un medico, diciamo, alla professione per guarire, mica per farlo. No, certo, ma quello mi riferisco agli ospedali pubblici, quando uno si presenta. Sì, io lavoro in ospedale. Ma una volta che sono lì in stanteria, ingegnere, dottore, non ce n'è di sicura, e si manda. Vabbè, via. Insomma, una buffonata pure questa. Ma sì, una folklore. Ingegnere no, Dottore, folklore. Ingegnere lei o no? Ma mi hanno detto, no, io sono medico. Lei è medico, sì. Ma non dovevamo dire una cosa su Balotelli? Ah, Balotelli, sì, Balotelli, mi sono scordato Balotelli. Insomma, allora, in nazionale perché nero, dice Cazzullo, domani se ne parlerà pure a bianco e nero. Allora, in nazionale sei bravo, poi che sia bianco, negro, giallo, russo, non cambia, non è che adesso perché uno è nero va in nazionale, sei giallo no, sei bianco va in Serie B. Vanno in nazionale coloro che sono migliori, e a mio modestissimo avviso, tanto Balotelli quanto Sartori sono due ragazzi con grandi qualità, un po' viziati, un po' presuntuosi, un po' pieni di sé, che hanno bisogno di maturare ancora un pochettino. Vabbè, insomma, non deve andare in nazionale perché è nero, questo è la... No, esatto, in nazionale perché è bravo, è maturo. Cioè, non per dare un segnale, non dobbiamo dare nessun segnale. Ma scusi, dottore, ma che segnali dobbiamo dare in Italia? Siamo un popolo dove il razzismo non, beh, ha pentito, sa che viene razzismo. fischiato, ma viene fischiato, ma viene fischiato dalla squadra avversaria. Se andassi io quando vado in giro ai congressi nostri mi chiamano Sasha perché sono convinto che io sia russo, e quelli delle altre nazioni mi sfottano, prendono in giro e scherzano e ridono convinti che io sia russo. E io dico, ma mi sono minga russo, scusa, No, questo... io dico, questo... Paruschi, ma io non sono Paruschi. Questo si sente, grazie Prosperini, buonasera. Eccoci, 21 minuto, TG5, iniziamo col TG5. A stroncare Gian Guerino Cafasso, il pusher dei trans morto a settembre, una dose letale di eroina mascherata da cocaina. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio, molti file cancellati nel computer di Brenda. Processo breve, Alfano, sbagliate le cifre dell'ANM, Bersani, ritirare il provvedimento. Il PDL, diktat inaccettabile. Fini, ripartiamo dalla bozza Violante. Schifani, dialogo. Tremonti, nel 2010 il PIL italiano potrebbe salire all'1%. Letta, il ministro ha tenuto salda la barra dei conti pubblici. In Belgio un uomo creduto in coma per 23 anni sentiva e capiva tutto. Operata la donna brindisina malata di SLA che inizialmente aveva rifiutato le cure. Arrestati a Chiavari due piccoli imprenditori edili, eliminavano i concorrenti facendoli arrestare con prove false. Un innocente ha scontato un anno di carcere. Il comune di Napoli non riesce a stampare i verbali, in fumo gli incassi delle multe per 6 milioni di euro. Regali di Natale, previsioni positive, nessun calo, preferiti abbigliamento, libri e alimentari. E per chi vuole donare un cucciolo, responsabilità e occhio alle truffe. Eccoci, sentiamo anche il TG1. Tremonti, nel 2010 PIL in crescita dell'1%, Letta difende la politica del rigore del ministro dell'economia. Caso Marrazzo, Cafasso, il presunto pusher fu stroncato da una dose di finta cocaina nel computer di Brenda, centinaia di file. Schifani e Mancino, abbassare i toni, Bersani, via il processo breve, discutiamo, Fini, il DDL non è riforma, giustizia Alfano, iperboliche cifre NM. Germania, direttrice di banca come Robin Hood, prelevava dai conti dei più ricchi per risanare quelli in rosso, condannata a 22 mesi di carcere. Roma, chiusi i locali e stop ai tour dell'alcol, un enorme giro d'affari dietro ai pub crawl, l'inchiesta del TG1 dopo la morte di uno studente australiano. 70 big per questo piccolo grande amore, Baglioni rilegge il tema della sua vita con un doppio album, le canzoni di allora più 15 inediti. Bene, Giuseppe da Venezia, buonasera. Pronto? Buonasera, dica. Sì, mi scusi, spengo la radio. Grazie. Una notazione magari un po' rilanciana sul nord-est. Se c'è un punto in Italia, un tratto piuttosto lungo, in cui Radio 24 si sente con difficoltà, continuamente invasa da chi non rispetta le frequenze, è proprio il nord-est. Rimango di Sasso, io non sono di Venezia, passavo da Venezia e ho dato questa informazione alla signora del vostro consiglio. Grazie di questa informazione. Glielo dico perché è strano, noi in un paese, in un'area del paese in cui rispetto le regole dovrebbe essere, a detta degli amici del nord-est, dovrebbe essere addirittura la regola primaria, a quanto pare poi non sono meglio di quelli del sud. Anzi, nel sud sento meglio Radio 24. Una notazione veloce, mi scusi, su quella norma del ministro Castelli, l'ex ministro della giustizia, che proibisce, e volevo chiedere a lei perché, proibisce ai magistrati di prima nomina di occupare posizioni nelle zone calde del sud. Sì, ecco, volevo chiedere la ragione, visto che ho letto il vostro telegiornale che lascia sguarnito il 60% delle norma sedi. Che mi sembra sbagliata, non ne ricordo la ratio, però mi sembra una norma sbagliata, infatti sta creando diversi problemi. Infatti era la ratio che mi sfuggiva. Non la ricordo la ratio, francamente non mi viene in mente in questo momento, però mi sembra, dalle cose che mi dicono, che crea diversi problemi. La ringrazio. Gianluca da Brescia, buonasera. Sì, pronto, buonasera, grazie dello spazio. Volevo chiederle, proprio sul discorso dei rastrellamenti di cui continuano a parlare, di Coccaglio, abito qua vicino, a parte che la persona che ha parlato prima, che non mi ricordo più come si chiama, ha detto che a Coccaglio, Rovato, Chiari, così non ci sono extracomunitari, ma in verità ce ne sono molti, con questo niente di strano, poi ce ne saranno tanti anche brave persone. La mia battuta voleva essere, la domanda a lei, ma come si può fare, avere una soluzione che la smettano di dire che esistono dei rastrellamenti oggi nel 2010? Non riesco a capire, cioè la mia battuta sarebbe dire, ma perché non controlliamo tutti nel paese di Coccaglio a questo punto, italiani e non, e chiunque? Potrebbe essere una soluzione per evitare almeno di dire che ci sono gli attrellamenti o che ce l'hanno tutti con gli extracomunitari. Che significa controlliamo tutti? nel senso fare dei controlli sia per quanto riguarda a casa degli italiani e a casa degli extracomunitari, un controllo generale. Non, sì, ma Gianluca, i controlli sì. Sono, dovrebbero essere la routine per la polizia, per certo. Anche per la polizia locale. Non è il caso di promuovere insomma, iniziative su larga scala, secondo me. Non serve. No, mi scusi, ha ragione, mi perdoni. La mia battuta voleva essere. Cioè, i controlli sui documenti, sì. I controlli su chi è regolare certo. O irregolare, dovrebbero essere la routine in un paese normale. Non certo. Ci sarebbe da scandalizzarsi. Certo, ecco. Se uno promuove un'iniziativa dandogli il nome di White Christmas e poi forse, dobbiamo verificarlo, fa perquisire o comunque fa andare i vigili urbani nelle case alle 4 di mattina, insomma questo credo non vada bene, o no? Totalmente sbagliato, onestamente volevo semplicemente smettere di sentir dire a tante persone italiane che siamo razzisti per forza, cioè le persone vogliono, il razzismo non c'entra niente. Extracomunitari stessi vogliono semplicemente quelli regolari, vogliono evitare che i loro stessi compagni che non sono regolari sì. Combinino dei guai. Io credo che siano i primi, ho tanti amici extracomunitari, effettivamente loro stessi dicono, insomma, ci guardano male anche a noi solo perché altri sono in giro che magari ha sentito la cronaca, rovato quello che è successo, sì, stupro. Sì. Qualche settimana fa l'accoltellamento, 2 o 3 mesi fa si sono sparati, insomma diventa un po' pesante questa cosa qui. Sì, però sono degli episodi di criminalità che devono essere affrontati come episodi di criminalità, non è che possono poi certo. Dare il là a iniziative sconsiderate. La ringrazio Gianluca. Piero Mussetta, sindaco di Lombardore, provincia di Torino, buonasera. Buonasera a lei. Eccoci buonasera qui, lei. Aspetto con grande trepidazione il consiglio comunale di domani, essendo io uno favorevolissimo alla riapertura delle case chiuse o comunque alla legalizzazione della prostituzione. Insomma, io non credo che una spinta possa venire dal vostro comune, per carità. No, assolutamente no. Però che senso ha allora questa riunione del consiglio comunale di domani? Me la spieghi? Ma spiegavo precedentemente alla giornalista, noi siamo un comune di 1500 abitanti, quindi sì. Una realtà piccola nel contesto generale del paese, insomma. Noi abbiamo intenzione con questo ordine del giorno riportare l'attenzione su quello che noi riteniamo oggi sia un problema legato al nostro territorio, ecco. Penso sia un problema a livello perlomeno della regione dove io risiedo, ecco, come situazione. Però voi con questo ordine del giorno volete spingere il Parlamento a riaprire le case chiuse, ma è una cosa che volete fare voi a Lombardore a prescindere dalla modifica di una legge nazionale, se state no, cercando di fare in qualche modo oppure no? Assolutamente no, nel senso che noi vogliamo stimolare quello che sono gli organi competenti in materia, il governo, le regioni, insomma, a porre anche l'attenzione su quello che noi riteniamo sia un problema che, ripeto, in questo momento colpisce il mio comune, ecco, e ritengo di parlare, credo di avere sollecitato una buona parte della popolazione favorevole comunque perlomeno a parlarne di questo problema. Ecco, voi non è che insomma stimolate la popolazione con una promessa di riduzione delle tasse, questo mi sembra interessante, cioè dire che ci fosse una soluzione. Certo, lei converrà con me che ovvio nel momento in cui lo Stato o le regioni istituiscono un sistema per controllare, insomma, regolamentare questo, noi riteniamo che attualmente sia un losco traffico purtroppo di esseri umani anch'esso, insomma, sotto altre forme, ma insomma, ed è un finanziamento che va a beneficiare la malavita e tutto il resto, insomma. E che invece potrebbe essere incassato dallo Stato. Siamo qui 2013 800 24 0024 con il sindaco di Lombardore, provincia di Torino, Piero Mussetta, che fa il rappresentante, se non sbaglio, no? Esatto. Senta Mussetta, qualcuno mi dice che in realtà le prostitute sono un po' scomparse da quando voi avete fatto l'ordinanza. Diciamo che l'ordinanza che mette delle multe, cioè, anche nei confronti dei clienti. Dunque, che le volete fare a fare le case chiuse? Non ho capito, scusi. Dunque, perché volete adesso, se sono scomparse, volete... No, attenzione, il problema non sono scomparse, si sono trasferite nei comuni laddove non esiste questa ordinanza. Ecco, non è che non abbiamo, purtroppo non abbiamo la bacchetta magica, ecco, nel senso che il problema si pone in altro modo, ma persiste il problema, nel senso che le provinciali che interessano il comune di Lombardore sono lo stesso frequentate da queste ragazze che, attenzione, sono vittime di sfruttamento, ecco, noi non è che stiamo conducendo una crociata. Senta, lo sa che cosa non mi convince di questa cosa? L'idea che è stata esplicitata, che è stata raccontata dal suo vice sindaco, di creare dei bordelli comunali, addirittura il suo vice sindaco dice: una decina di ragazze professioniste serie, capaci di farsi conoscere e apprezzare per loro doti in camera da letto. Insomma, la scelta di queste cose lasciamola fare ai privati, o no? Sì, certamente, certamente. Ripeto, vorrei riportare tutto sotto il profilo della provocazione, insomma, nel senso che è ovvio che sono parole, anche perché comunque ci sono delle realtà che oggi sono magari coperte da centro massaggio e quant'altro, dove comunque già si esercita questo tipo di professione, insomma, quindi lascerei da parte questa, che ripeto è una provocazione, per ritornare su quello che è il problema principale, ecco, insomma, come situazione. Ripeto, abbiamo cercato un po' di catturare l'attenzione un po' dell'opinione pubblica, dei mezzi di comunicazione e quant'altro, rispetto a quello che noi riteniamo sia un problema, ecco, tutto qui. E potrebbe, secondo noi, ripeto, potrebbe rappresentare, se gestito in maniera diversa, anche regolamentato, insomma, vabbè, non abbia paura a dirlo, regolamentato, legalizzato, insomma, certamente, no? Certo, perbacco, domani affronterò un consiglio comunale, quindi si immagini se ma l'opposizione che dice? Mi sembra sia contraria. L'opposizione è contraria, però lei mi insegna che il ruolo delle opposizioni è solitamente quello, insomma. Lei è rappresentante di una lista civica di centrodestra, diciamo così. Esattamente, no? Esattamente. E la mia esperienza politica, ripeto, seppur nell'ambito di un piccolo comune, io ho sempre visto che l'opposizione si è sempre mostrata contraria rispetto a quello. Ma poi in teoria l'opposizione, diciamo, di sinistra in questo caso dovrebbe essere favorevole a una regolamentazione di quello. Sì, molto probabilmente rappresentiamo una contraddizione anche nel contesto nazionale, insomma, come assolutamente. Va bene, grazie a lei, Piero Mussetta. Siamo qui 20:17 800 24 00 24. Andiamo a Teramo. Daniele, buonasera. Buonasera, dottor Cusani. Senta, la chiamavo in merito alla questione sul processo breve. Dica. Mi domandavo, ma il tentativo di regolamentazione di una procedura... Daniele, sentiamo malissimo, mi scusi. Richiamiamo, Mario da Milano, buonasera. Buonasera, sono in onda, vero? Sì. Ecco, senta, io sono un commercialista e sentivo con interesse questo discorso della regolarizzazione del lavoro della prostituzione. Ritengo che sia un po' difficile, mi faceva anche un po' ridere la cosa, perché poi come vengono inquadrate queste lavoratrici? Indubbiamente, stando al regime fiscale italiano, come professioniste, no? Quindi come un avvocato, un commercialista, un giornalista. Quindi devono fare una ritenuta d'acconto, quindi devono fare una fattura, devono fare una certificazione a fine anno per il 770. Ora mi domando chi è che, usufruendo di quel servizio, si fa fare una fattura o si fa mandare una certificazione a fine anno. Se non si vuol fare così, si deve fare un reddito presunto. E allora mi fa impressione uno studio di settore fatto su quel tipo di professione. E perché perché le dovrebbe fare scandalo una cosa del genere? Scusi? Perché dovrebbe suscitare scandalo una cosa di questo tipo? No, non scandalo, mi fa ridere. Cioè, lei se lo vede uno studio di settore fatto per una prostituta o comunque... Assolutamente sì, lavoratrici del sesso. Sì, no, appunto, non sto criticando, non mi sto scandalizzando della cosa. Ritengo che ci siano delle perplessità da parte chi deve fare poi queste leggi nel farle, no? Perché fai uno studio di settore dove dici, non so, durata della prestazione, tipo di prestazione e via dicendo, no? Insomma, questa è la cosa che queste mi sembrano francamente dei dettagli rispetto al fatto che si possa fare sia uno studio di settore che altro calibrato su quel tipo di mestiere. Non vedo lo scandalo se uno non si scandalizza per il fatto che le prostitute possano pagare le tasse, poi tutto il resto va di conseguenza. Come dire, il modo di chiamare questa professione dal punto di vista delle carte bollate lo si trova o no? No, questo è d'accordo. Quello che mi fa pensare un po', no? E poi come fai a controllare, nel senso che io mi domando chi si fa fare una fattura per un tipo di prestazione di questo tipo, voglio dire, Poi è una specie detraibile, non detraibile, quindi diventa anche abbastanza complicato, no? Quindi alla fine poi lavorerebbero sempre comunque in nero e non in bianco. Ecco, questa è, ripeto, ci sono in Europa moltissime case chiuse, organizzate, e sicuramente pagano le tasse, fatturano, se volendo rilasciano una ricevuta, insomma. Sì, mi sembra una cosa abbastanza normale, gestibili, insomma. Certo, se lei si affronta con la risata, come fa lei, per carità, con tutto il rispetto, o con una sorta di pregiudizio nei confronti di o pensando che ci si deve mettere a ridere quando si legge prestazione, allora sì, però sono tutte cose fattibili, perché ci sono altre esperienze che ce lo insegnano. No, non mi fraintenda, non è che c'era una contrarietà o uno scandalizzarsi. No, ma ho capito, per carità. L'ho detto così a titolo di battuta, mi viene un po' così, mi fa un po' sorridere, ma è solo una battuta, capito? No, ma ho capito benissimo. Non c'era nessun intento, né denigratorio né di nessun tipo, ecco questo. Mi viene questo... Vedendoli tutti i giorni, no, queste cose, quando mi trovo poi in un settore del genere, dico, mi viene un po' da ridere, ma da ridere nel senso buono del termine, capito? Perfetto, grazie. Angelo da Cosenza, buonasera. Sì, buonasera, intanto complimenti per la trasmissione, molto fine. Io volevo intervenire sul fatto del presidente Fini, ecco, io sono un agente di polizia, mi fa sorridere tutta questa attenzione che si è sviluppata nei confronti di questa piccola parola. Io credo, come dice il buon vecchio Paolo Rossi, che una parolaccia a volte possa svegliare un discorso che spesso potrebbe essere inteso come retorico, come accomodante nei confronti di un argomento. E poi negli anni siamo stati abituati a vilipendi delle bandiere, a intere schieramenti politici che della parolaccia hanno fatto un modo d'essere, lo abbiamo bollato come pittoresco, mentre pittoresco non è, è solo spesso vergognoso nei confronti di chi fa molta attenzione alle parole, moltissimo. E il nostro è un paese dove di parole spesso si vincono e si perdono le elezioni, a differenza dei fatti che se ne fanno pochi, di parole se ne fanno tante. Bisognerebbe fare più attenzione alle parole. Io credo che una parolaccia detta da Fini abbia un valore morale particolare. Attenzione, non in che senso, mi scusi? Presa con le parole, proprio per il fatto che Fini non le dice mai, l'ha detta per svegliare l'attenzione, a differenza di, credo che uno stronzo detto da Fini abbia più importanza di uno stronzo detto da Bossi, e questo non deve far pensare che se c'è qualcuno che dice sempre parolacce, spesso parolacce, debba essere legittimato a farlo per il solo fatto che le dice spesso e continuamente. Non ho capito molto bene il suo ragionamento, cioè il fatto che le dice Fini è più legittimato a dirlo, questo è il fatto? No, assolutamente, e il fatto che le dica qualcun altro spesso e volentieri non deve destare meno interesse, è come se la parolaccia perdesse l'effetto, solo questo. Sì, ho capito. Poi, d'accordo, Angelo. È solo un'ultima cosa, essendo un agente di polizia, sì, questo fatto della prostituzione credo sia molto interessante, l'iniziativa di questo comune, quantomeno se ne discuta e si cerchi di capire dietro questo quanto dolore c'è, quanto malaffare fanno tutti i giorni le organizzazioni criminali, credo che la moralità debba essere un pregio di un paese, non un bagaglio ingombrante. Ci sono dei paesi in cui la prostituzione è, non dico legale, ma regolamentata, in cui le droghe leggere sono regolamentate. Non vedo perché noi dobbiamo guardare solo ai paesi che sono più restrittivi di noi e non a quelli che di queste cose hanno saputo creare un sistema e hanno saputo integrarle nella vita civile di una società. Bene, sono due argomenti molto diversi, la legalizzazione della prostituzione e la legalizzazione delle droghe. La ringrazio. Daniele da Teramo, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, non so se mi sente bene questa volta. La sento, dica. Niente, mi domandavo circa il processo breve. Siccome cosa è un'esperienza. Cosa? Cosa voleva dire sul processo breve? Siccome è un'esperienza che è già stata tentata, l'introduzione dell'efficienza attraverso una regolamentazione della materia, ad esempio con la regolamentazione del processo, del procedimento amministrativo, la tempificazione. Daniele, però valutavo che pronto? Sì, sì, Daniele, vada al sodo, però altrimenti no, siamo qui ad aspettare le sue parole e restiamo un po' appesi. Buonasera. No, buonasera, le dico, vada al sodo, qual è il suo ragionamento? Daniele? Non ci sente più. Fabio da Milano, buonasera. Buonasera Cucciani, volevo dire una cosa che mi ha detto mio padre. Negli anni 60 si è trasferito dal meridione qua al nord, a Milano, sì. E è stato accompagnato dai carabinieri una sera per essere controllato, anche se lui era un italiano, però come si diceva una volta a quei tempi, terrone, qua a casa sua per controllare dove viveva, che lavoro aveva e tutto quanto, con un foglio di via che già esisteva a quei tempi. Io non riesco a capire tutta questa gente che si scandalizza se vengono fatti dei controlli. In Italia siamo la nazione dove non si fanno controlli, e questo è il problema, secondo me. Invece di dire questa è la persecuzione dei razzisti e questo e quello, ci sono tante cose che in Italia c'è gente che approfitta di questa gente che viene qui in Italia per lavorare in nero, per sfruttarli, per questo e quell'altro, ma se non facciamo i controlli, come riusciamo a risolvere i problemi? E questo è il problema che io non riesco a capire. Mio padre, che era detto terrone e tutto quanto, che era italiano, è stato accompagnato dai carabinieri, controllato e fatto. Adesso se si fanno dei controlli siamo dei razzisti. È come la storia di Ballotelli. Se si fischia Ballotelli, Totti viene fischiato tutta la partita e non dice niente a nessuno. Cioè, ormai tutto quello che si fa è razzismo e basta. Io non riesco Fabio, più a capire. La ringrazio, in un certo senso lei ha ragione, spesso si usano parole a sproposito. Marcello da Cosenza, buonasera. Buonasera, mi sente? Dica. Sì, sì, la sento, dica Marcello. Guardi, io quello che mi ha spinto a telefonare, dottor Crucia, è stato il suo commento che ha fatto sul radioascoltatore sul processo breve, che non aveva aggiunto nulla di nuovo e che era qualcosa già che si sta discutendo. Discutendo, di cui abbiamo parlato diversi giorni fa, dicendo... Sì, però dato che è un problema attualissimo ed è un problema che potrebbe anche far cadere il governo, mi sembra che sia sempre un problema molto attuale e che se ne debba... Sì, naturalmente bisogna apportare anche elementi nuovi o fare ragionamenti diversi da quelli che abbiamo già fatto 100 milioni di volte, altrimenti. Per quanto mi riguarda io voglio dire solo una cosa molto semplice. A me dà molto fastidio, non tanto che lo si approva o non lo si approva, che non lo si dica chiaramente che diciamo che non è per come si vuole far intendere un processo breve per far durare meno anni i processi o meno, ma che attualmente è una legge che si deve approvare perché serve, giustamente o ingiustamente, che perché serve al nostro presidente. Abbiamo già detto però da questo punto di vista. Marcello. Noi lo diciamo, però quando gli esponenti politici... Lei dice che i politici dovrebbero essere espliciti da questo punto di vista. Ecco, però in effetti l'informazione, voi come giornalisti, si deve sempre far presente questo problema, perché io... Con l'opinione pubblica, mi scusi, parlando di processo breve, e giustamente tutti dicono è buono il processo breve. Perché sì, Marcello, però abbiamo già, da questo punto di vista, abbiamo già sviscerato. Lei dice i politici dovrebbero essere più espliciti su questo. Beh, insomma, è difficile far dire a qualcuno del PDL, guardi, facciamo una legge per Berlusconi. Qualcuno lo dice apertamente, anzi qualcuno lo rivendica come straguadagno, altri dicono no, però c'è l'esigenza di fare una riforma per i cittadini. Ipocrisie, secondo me. Siamo qui alle 20.35, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Andiamo a Lombardore, giusto appunto. Alessandro, buonasera. Buonasera. Dica. Ma guardi, intanto io sono il capogruppo della minoranza del comune di Lombardore. Chiamavo proprio in merito all'intervento del sindaco di qualche minuto fa. Sì. Adesso stanno molto... calmando le acque, dicendo che è soltanto una provocazione, eccetera. In realtà noi domani sera ci troveremo a votare un ordine del giorno nel quale si chiede al governo di fare una legge per legalizzare, così diciamo, riaprire le case chiuse. E secondo lei è una buffonata? Sì, abbastanza. Cioè una cosa velleitaria, una cosa per far parlare i giornali, guardi, eccetera? Io non entro nel merito se saremo d'accordo o no con la riapertura delle case chiuse, che in realtà potrebbe anche essere una cosa giusta se si fa sì. qualcosa per regolarizzare. E cosa contestate allora? Contestiamo il fatto che si usi il comune per farsi pubblicità. Non so se l'ex sindaco adesso ha delle velleità per le prossime elezioni regionali e quindi si vuole fare un po' di pubblicità, vuole un po' di notorietà. È già da un paio d'anni che butta ogni tanto fuori questa cosa delle case chiuse comunali. Adesso ha tirato fuori anche, non so se avete sulla stampa, su un articolo sulla stampa di Torino oggi, ha tirato fuori che con i soldi incassati dalla case chiuse si potrebbero far risparmiare ai cittadini le tasse dell'acqua e dei rifiuti. Sì. Insomma, sono cose un po', come dire... demagogico. È abbastanza. Senta, innanzitutto potrebbe abbassarmi la radio, spegnerla, perché sennò no, io ce l'ho, sono sul cellulare. Ah, bene, allora sento comunque un ritorno, la sua voce doppia. Comunque non fa niente. Senta, le voglio chiedere questa cosa qui. Da dove nasce questa iniziativa del sindaco? C'è un'esigenza reale della città oppure no? Ma guardi, Lombardone è un paese di 1500 abitanti, sicuramente si trova a dover fare sempre i conti al centesimo con quello che sono le normali spese di amministrazione. Se consideriamo che Lombardone negli ultimi anni, con i 10 anni di gestione di quello che attualmente è il vice sindaco, ma è stato per 10 anni sindaco, si è indebitata per i prossimi 40 anni per cifre veramente molto importanti, probabilmente si cerca qualche strada alternativa per poter incassare qualcosa. Non so, io la butto lì, sono delle mie... delle teorie che mi sono fatto. Sì, d'accordo, sicuramente, ma siccome non è per domani la riapertura delle case chiuse. No, sicuramente no, però comunque non lo so, onestamente non so quale altro motivo possa avere una persona se non la pubblicità personale, fare un po' di rumore. Se poi mettiamo che nello stesso consiglio comunale... No, ma c'è un problema di prostituzione sulle strade oppure allora, no? Allora, il problema di prostituzione nelle strade c'è ed è diffuso ovunque, non è soltanto a Lombardore. No, a Lombardore questo è chiaro. Si vedono quelle... C'è una strada che va da Lombardore a Volpiano su cui sì. c'è un certo numero di ragazze che si prostituiscono, ma continuano a prostituirsi esattamente come prima, sia nel territorio del comune di Lombardore che nel territorio del comune di Volpiano. E l'ordinanza di un anno fa ha cambiato le cose oppure no? Continuano a rimanere quelle che c'erano, ogni tanto cambiano perché c'è una forte variabilità, queste ragazze non sono mai le stesse. Io sì. abito a Volpiano perché mi sono trasferito dopo che mi sono sposato, però continuo ad andare tutti i giorni a Lombardore, che mia mamma abita lì, e faccio quella strada e le vedo, ci passo davanti. E l'idea di un bordello comunale gestito dal comune, questa mi sembra una cosa un po' guardi, surreale. Per me è vergognosa l'idea che un comune, un ente pubblico, un'amministrazione comunale si possa fare sfruttatore della prostituzione. Ma no, in quel caso non sarebbe sfruttamento, non sarebbe sfruttamento. Se viene legalizzato lo sfruttamento non esiste più, mi pare evidente questo, no? Lo sfruttamento secondo me esiste sempre se c'è qualcuno che prende. Ho capito, soldi cioè... se è legalizzata la prostituzione, dunque la possibile riapertura delle case chiuse diventa realtà, a questo punto non c'è più sfruttamento. Si fa un po' di confusione tra prostituzione e sfruttamento della prostituzione. In Italia non è vietato prostituirsi, è vietato certamente, però se sì, qui non se c'è sì. niente da legalizzare in quel senso, o sbaglio? No, certo. Il problema è l'apertura della casa chiusa, mi va bene. Certo, lo faccio nei privati, dicevo. Però non può il comune farsi questo anche moralmente, cioè esiste ancora una cosa che sia morale, non pensare soltanto al guadagno. No, ma su allora questo sono perfettamente d'accordo con lei. Allora a quel punto il comune, ma insomma, di cosa discuterete? Deve regolamentare, questo... ma non deve gestire. Certo, ma insomma, di cosa discutete domani? Questo mi incuriosisce. Ma noi inizialmente abbiamo fatto una richiesta tramite il giornale su cui era uscita questa cosa all'ex vice sindaco di chiarire se parlava a nome suo per farsi pubblicità, a nome del comune, a nome del sindaco, a nome della giunta comunale. Insomma, è uscito questo articolo in cui c'era la sua foto e in cui parlava solo lui, non diceva a nome di chi parlava. E quindi quella è stata la nostra richiesta. Tutta la cosa che è uscita fuori dopo, io non ho mai detto di essere contrario alla riapertura delle case chiuse. Prima il sindaco ha detto sono contrari, ma io ancora non glielo ho detto di essere contrario. È una sua idea che io sia contrario. Vabbè, sentiremo domani sera. Grazie di averci chiamato. Insomma, ci collegheremo anche domani sera per capire cosa succede in questo piccolo comune. 800 24 0024. Sebastiano ci chiama da Siracusa. Buonasera. Pronto? Non mi sente più. Cosimo da Torino. Buonasera Cruciani. Dica. Buonasera, io sto chiamando perché sento che è due giorni che si sta parlando a proposito della battuta di Fini. Sì. E, secondo me Fini ha fatto una battuta ancora più bella dicendo che lui è la seconda carica dello Stato perché è alto 1,85 m. Sì, l'ho sentita. Ecco, quindi sostanzialmente quello era il vero senso di un discorso dove tende a sottolineare il suo livello di importanza all'interno di questo governo. Probabilmente parlando della bassezza morale degli altri componenti, non lo so, questo bisognerebbe chiederlo a lui. Cosimo, non mi sembra di poter fare dietrologia sulla frase di Fini, dietrologia politica naturalmente, non lo so francamente, non mi ci sono soffermato più di tanto su questa cosa che ha detto Fini. Maurizio da Genova. No, ma voglio dire, secondo lei che cosa intendeva Fini dicendo che è la seconda carica dello Stato? Fini intendeva dire che la politica ha bisogno di profili di alto livello. Quando si va a discutere sempre delle solite cose, quando si va a promettere sempre le solite cose che poi non si mantengono, qui si abbassa il livello della politica. E quindi probabilmente con questa sua battuta lui voleva dire che sostanzialmente è al di fuori, lui ha un livello più alto rispetto agli altri. Non lo so. La ringrazio. Maurizio da Genova. Sì, buonasera. Io un intervento sempre sul discorso, sulla frase di Fini. Mi sembra che due giorni che si parli del termine che ha usato, ma non si parla del concreto di quello che ha detto. Cioè, siamo d'accordo, o perlomeno gli ascoltatori, qualcuno sarà intervenuto dicendo che è d'accordo o meno su il fatto di dare il voto agli immigrati, il voto seppur amministrativo. Io personalmente sono d'accordo. Siamo una persona che lavora qua, che è in regola, che paga le tasse qua, voglio dire, l'abbiamo dato a persone che sono da 40 anni, da 50 anni o non sono neanche mai venute in Italia, diciamo gli italiani che residenti all'estero, e non vogliamo darlo a persone che sono qua. Io ritengo che nel merito sono pienamente d'accordo con quella proposta lì. Poi la frase che ha usato, ecco, forse il limite di quella frase lì è stato proprio che adesso si parla della frase e non del contenuto. Sì, ma in realtà la frase non è che fosse all'interno di un discorso sul voto amministrativo agli immigrati, si parlava in realtà della discriminazione. La ringrazio. Massimo da Modena, buonasera. Buonasera Crociani. Due considerazioni sul discorso dell'iniziativa del paese piemontese. La prima, che non ho sentito dire da nessuno sul fatto sanitario. Io credo che non possiamo nasconderci dietro ai costi che poi sostiene il nostro Stato anche nei confronti e delle ragazze e anche delle persone che dovessero avere problemi da questo punto di vista. E credo che non ci si debba proprio vergognare o avere timore nel parlare di queste cose. L'altra, sicuramente la dimensione del fenomeno. Io vivo lavorativamente a Bologna. Credo che tra strade, giornali, internet, non so cosa, si faccia presto a fare qualche centinaia di persone che sono disposte sul mercato a questo, considerando il flusso giornaliero di tre persone per ogni ragazza, moltiplicato per la settimana, considerando che le stesse persone non ci vanno tutti i giorni, parliamo di migliaia di persone che ci vanno. Cioè, questo è un fenomeno di fronte al quale non possiamo nasconderci. Ultima considerazione che mi fa sorridere. E se non ci vogliamo nascondere, cosa dobbiamo fare allora? Secondo me dobbiamo affrontarli in modo diretto. E in modo diretto significa legalizzando, certo, allora legalizzarlo, assolutamente. Vabbè. Mi fa sorridere il commercialista che dice come fare fiscalmente. Proprio da un commercialista, cioè se fosse venuto da qualcun altro, credo che questo sia il problema minore. Poi abbiamo sicuramente un problema non indifferente di moralità e legato alla presenza di uno Stato che è uno Stato indipendente, ma che è all'interno, per storia, per tutta una serie di cose nel nostro paese, che è il Vaticano. Questo è il reale vincolo di fronte al quale il nostro paese non potrà mai, purtroppo, da un lato, prendere posizione in questo senso. Per tutto il resto, bene, mi sembra che gli elementi siano oggettivi. Sì, oggettivi, anche se poi non si fa un passo avanti verso questa direzione, anzi magari se ne fa qualcuno all'indietro. Siamo qui 20:47, 800 2400 24 per chiamarci in diretta, volata finale con gli ascoltatori, ancora 8 minuti in vostra compagnia. Franco da Como, andiamo veloci allora, Franco. Sì, buonasera, soltanto una riflessione, che da un lato sono sorpreso del fatto che un po' di Italia si scandalizza dai finiti di cestrozzo o dall'idea di riaprire le case chiuse. Dall'altra parte non capisco quanto Italia invece si scandalizza quando vede che i nostri presidenti fanno largo uso di prostitute e di transessuali, che mi pare che sia invece forse un elemento ben più grave. Cioè, il signore di prima diceva Fini insomma deve trasmettere un certo modo di essere, decoro. Cavolo, il decoro sono d'accordo da un certo punto di vista, però quando vedo poi che appunto i nostri presidenti, e dico in generale, fanno quello che fanno e lo leggiamo su tutti i giornali, alla faccia del decoro. Dall'altra parte sono anche così sorpreso dello scandalo di Fini che dice stronzo, che trovo che in realtà questo scandalo nasconde un problema, che è il vero problema del razzismo in Italia, che a mio parere è molto forte, molto grande. E lo dico perché vabbè, nella mia piccola esperienza, io sto per adottare un bambino di origini cinesi, di razza cinese, e un po' di preoccupazione ce l'ho. Non vedo di cosa dovrebbe così essere preoccupato, Franco. Come? Francamente non vedo di cosa lei debba essere preoccupato nell'adottare un bambino cinese, insomma, francamente non riesco a capire i motivi della sua preoccupazione, la ringrazio. Don Stefano Tesia ci chiama, anzi l'abbiamo chiamato noi, da Lombardore, Torino. Sì. Eccoci qui. Don Stefano, mi sente bene? Sì, ho sentito in parte la... sì, l'osservazione che è stata appena fatta, ma effettivamente il problema è vero, purtroppo no. non riguarda semplicemente gli strati poveri della società, ma tutti i livelli della società, ahimè. No, però Don Stefano, mi scusi un attimo, volevo chiederle una cosa che riguarda Lombardore, sì, che riguarda la sua città. Allora, ah sì, va bene. Senta, no, per carità, poi un'altra volta possiamo parlare di altri argomenti. Quest'idea di stimolare il governo a riaprire le case chiuse, addirittura il vice sindaco dice potremmo riaprire una casa chiusa e farla gestire direttamente dal comune. Lei, che è un religioso, il parroco di Lombardore, come l'ha presa? Guardi, a me pare più che altro una provocazione populista, evidentemente, no? Ma da un punto di vista istituzionale credo che non possa essere assolutamente accolta una proposta del genere, perché significherebbe semplicemente istituzionalizzare, cioè porre a livello di principio e di diritto quella che è un mercimonio, cioè la vendita di una persona alla fine dei conti. È questo che forse non viene sufficientemente considerato, no? Però Don Stefano, in altri paesi questo succede, no? Viene la prostituzione, sì, legalizzata, le prostitute pagano le tasse, sono controllate dal punto di vista sanitario. Questo le fa scandalo a lei? Ma diciamo che è una soluzione pratica, non ideale, ma è una soluzione pratica che perlomeno ovvia da un certo punto di vista ad alcune difficoltà concrete, che sono appunto quelle di questa presenza poco edificante lungo una serie di strade in circostanze particolari, esposte a famiglie, bambini, insomma, voglio dire, no? In questo senso sì, è comunque una soluzione limitata. Lei è contrario? Una soluzione... Sì. Sì, alla legalizzazione, sì, della prostituzione, cioè il fatto che il suo comune si faccia promotore di un'iniziativa del genere a livello nazionale. Sì, ma no, allora, il fatto che il comune si faccia propositore, cioè ponga in una modalità, insomma, provocatoria una problematica, si può discutere, ma è un modo anche per farsi sentire da parte di un piccolo paesino, voglio dire, no? Però rimane vero che si tratta di una problematica che è importante che venga assunta, che venga presa in mano, che se ne discuta, che se ne parli, insomma che si cerchi di trovare una soluzione che maggiormente consideri tutti gli aspetti. Io rendevo presente un aspetto che secondo me è antropologico, no? Morale, antropologico, e non è ancora pratico né portato, insomma qualcuno ragiona e dice vabbè dai, c'è un mercato, c'è una richiesta ed è giusto che la merce venga, come dire, beh, però poi nella pratica è così. Sì, nella pratica è così, però lei vede, io non posso chiedere a lei se è d'accordo o no, naturalmente, perché se la metto in questo modo, se la butto sul mercato, lei non mi può dire sì, sono d'accordo, no? Questo mi pare scontato. Ma vede, no, io non sono d'accordo, anche perché dal punto di se io istituzionalizzo il matrimonio, voglio dire, se io parto dal presupposto che ci sia semplicemente un consumo, ma il consumo c'è anche della pedofilia, capisce? No, vabbè, è una cosa un po' diversa. È una cosa diversa. Sì, però Don Stefano, mettiamola così, in altri paesi, anche con tradizioni cattoliche, sì, questa cosa qua è stata istituzionalizzata, è stata legalizzata. Che facciamo allora? Che facciamo? Sono paesi che sbagliano, sono paesi che sbagliano, sono legislazioni sbagliate. No, sono dei paesi che sbagliano, voglio dire, si sbaglia comunque anche non considerando la questione, forse si sbaglia ancora di più perché si mette la testa sotto la sabbia, per carità. Ho capito. Dico, è una soluzione parziale, sicuramente non ideale, possiamo parlare di male minore, non so di che cosa possiamo parlare. Di riduzione del danno. Che la prostituzione sia una cosa normale. Riduzione del danno, bene, mi piace questa cosa, la ringrazio, andiamo a Teramo. Stefano. Sì, buonasera Cruciani. Senta, io volevo intervenire in merito a Berlusconi, però prima, se mi consente, volevo fare una piccola introduzione, perché sentivo all'inizio della trasmissione di quel signore che è intervenuto, vabbè, sul discorso dei fini, di quella parolaccia tra virgolette che ha detto, e riflettevo su quanto siamo ancora bigotti, quanto questo paese sia ancora bigotto, perché il nostro presidente del consiglio va a puttane, è tutto tranquillo, da del comunista, che nel suo gergo è abbastanza offensivo, nessuno parla. Il presidente della Camera dice stronzo, ci si vergogna. Comunque, non mi pare che non si parli delle frequentazioni di Berlusconi, e non mi pare che non si parli delle frasi di Berlusconi in generale. Comunque, sì, però voglio vedere, Stefano, vada al sodo, dica. Nessuno, Cruciani, ha capito. Cioè, e poi, vabbè, comunque, detto questo, passando al discorso invece di Berlusconi, per arricchire il discorso sul processo breve, io mi faccio una domanda che pochi, forse Casini tempo fa se l'è chiesta. C'è Berlusconi che vanta tanto questo scettro da Dio, cioè è stato eletto dal popolo, no? Questa volontà popolare, sì, sì, che lui mette sempre in avanti. Mi chiedo, lui perché all'inizio della sua candidatura non ha detto che avrebbe voluto fare il lodo Alfano e quant'altro, o non difesa o non so difesa, però cioè, non credo sia stato corretto con i suoi elettori, non dicendo quello che aveva intenzione di fare, perché poi la prima cosa che ha fatto è lodo Alfano. No, allora la prima cosa no, ma insomma. Cosa che fa, beh, diciamo la cosa a quale ha tenuto molta importanza e ha centrato è stata questa. Poi vuol dire, va bene, Stefano. Perché non l'ha detto prima, Stefano? Domandona. La ringrazio. Abbiamo chiuso per questa sera. 800 24 00 24 è sempre il numero per domani, perché per stasera chiudiamo con le telefonate. Ci sentiamo come al solito 18:30. Ciao. La zanzara.